Targitazione di Tan. Ciao, ciao, ciao. Guai, guai, guai, guai. Tac, tac, tac. Zin, zin, zin. Durun, dun, dun, durun, dun, dun. Tac, tac, tac. È tardi, è tardi. Drin, drin, drin. Drin, drin, drin. Piu, piu, piu. Prego, mi spiega. Tac, tac, tac. Gio, gio, gio. Gio, gio, gio. Zin. Gio, gio. Gio, gio. Zin. Poème phonétique numéro 1, 1949. Tizikana picano, tizikana picano. Tuluá, tuluá, tuluá. Tuluá, tuluá, tuluá. Parikana panapa, janatana flore. Sgareta blanerosi, jambara tulare. Tizikana picano. Zambiltuna rana prezoder una rota. Cinettura tacle. Barinu, barinu, barinu. Talue, talue, talue. Cabarcate blusa. Plin. Paluna carona. Paluna carona. Carona canare. Cannara carrapè. Paratulonglusorun. Talare, talare, talare. Talare, talare, talare. Cartuzigun. Poem phonétique numéro 6. Zimbara, zimbara. Parena combla, parena combla getarica. Terino nuo. Paliu, paliu, paliu. Tamborro galano. Cingillu, cingillu, cingillu. Spizingli, tingolli, capiro cicchetti. Curru, curru, curru. Tracazzanata ciulica, plinguno. Zimbare, zimbare, cic pitoc. Plinguno. Poem phonétique numéro 8. Ta, ta, ta, tita. Ape, ipi, opla. Ta. Ta, ta, tita. Si sblinda. Pica, pica. Tarantan, tarantan. Tarantan, tarantan. Patongoron. Sizi, sizi, sizi. Deblata nera. Cingala. Ta, ta, ta, tita. Puapin, puapin. Puapin, puapin. Sizi, sizi, sizi. Cindacla. Cindacla, yoko. Tihon, tihon. Tihon, tihon. Zblam. Kansas City numero collage. Uno su uno uno. Sette su. Sette, sette, sette, sette, sette, sette. Sette viene undici, uno, uno, uno. Cinque, dieci, due in uno, tre in uno, ventitré, schidù. 66, 606, 606, 1000, 997, 50, 50, 5, oh, 5, 10, nickel e diecino, 10, 20, mulo partita, 10 e 10, 1A, 1A, dietro l'8 palla, 4F, 7, 7, 7, Heinz, 57, 56. C'est 1000 ans avant Jésus-Christ. Pero me o figlio manda via Garebo con la geritata ti facevano un remaggio. C'est à quelle heure? À 9h demain soir? À 9h. Catastrophe dorée. La catastrophe dorée.